Continuiamo a parlare di Vivere che rischio, il documentario di Alessandro Rossi e Michele Mellara, che sarà proiettato il 13 settembre all'interno di Resilienze e Festival. Ora siamo al telefono con Michele, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, parlavamo di Cesare Maltoni, di questa figura che voi affrontate da molteplici prospettive. Un po' Alessandro ci ha già raccontato qualcosa. Uno degli aspetti, diciamo, più sensibili forse nel dibattito pubblico di una certa area è il tema della sperimentazione, che prendete comunque in considerazione all'interno del documentario. Sì, beh, Cesare Maltoni, che ha fondato l'Istituto Ramazzini, ha sempre lavorato sulla prevenzione, e la prevenzione significava per lui la ricerca, cioè fare ricerca per testare l'eventuale tossicità o cancerogenicità di alcune sostanze. Le ricerche che ha condotto nel corso della sua vita insieme ai suoi collaboratori sono state fruttuose, perché hanno comunque messo in luce la pericolosità di tante sostanze, dandole comunque, e quindi regalando all'opinione pubblica, alla società civile, un servizio molto importante, ecco. Facevo appunto questo riferimento perché spesso la sperimentazione animale è invisa appunto agli animalisti, quindi questo è un tema con cui, come dire, offrite uno spunto di riflessione sulla necessità anche per la salute umana di queste pratiche. Bisogna dire che effettivamente la sperimentazione realizzata su cavi all'interno dell'Istituto Ramazzini, per volere dello stesso Cesare Maltoni, è sempre stata molto rispettosa dell'animale, tant'è vero che veniva mantenuto in vita per tutto il ciclo biologico della vita dell'animale. Sono animali comunque nati in cattività, sono trattati comunque con tutte le cure necessarie, con visite veterinarie costanti, e Maltoni su questo punto è sempre stato, come dire, molto fermo, cioè il rispetto della vita degli animali. Ecco. In questo senso abbiamo potuto constatare anche direttamente, facendo il documentario, che le persone che lavorano con le cavie sono persone, oltre che avere delle preparazioni specifiche, sono anche persone che amano, insomma, il contesto in cui lavorano, e quindi anche gli animali stessi. Siamo in un contesto di una pandemia globale cui il tema della salute è diventato, come dire, è prepotentemente al centro del discorso pubblico. In questo senso, quali sono gli insegnamenti, i messaggi che arrivano da questa figura? Beh, l'insegnamento sicuramente è legato alla necessità di prevenire, cioè di studiare, di fare ricerche, di prevenire piuttosto che curare. Cioè, non dimentichiamo che l'Istituto Ramazzini prende il nome appunto da Ramazzini, lo scienziato che disse: prevenire meglio di curare. Insomma, la prevenzione è un punto cardine della nostra possibilità di vivere in salute, e questo è un insegnamento che secondo me dobbiamo raccogliere, perché prevenzione vuol dire anche riuscire ad attuare dei percorsi di ricerca onerosi, lunghi temporalmente e non facili da gestire, e che però, come dire, guardano al futuro e danno la possibilità comunque di vivere in un ambiente più salubre, in un ambiente con meno rischi per l'uomo. Non dimentichiamoci che Maltoni è stato molto importante anche per la medicina sul lavoro, cioè il lavoro che ha fatto rispetto alla verifica della pericolosità di molte sostanze con le quali i lavoratori erano a contatto. Adesso penso tutti lavoratori del petrolchimico, per esempio, tutti gli studi che ha fatto sull'aspartame, sul cloro di vinile. Ed ecco, avere, come dire, la coscienza, la consapevolezza di lavorare in ambienti sani è uno dei lasciti, dei messaggi più importanti che Maltoni ci ha lasciato. Per il suo lavoro si è attirato a volte anche le ire di grandi potentati economici, di industrie, proprio perché le sue ricerche portavano delle evidenze che evidentemente cozzavano con gli interessi economici di alcune industrie. Per quanto riguarda la politica, invece, come dire, com'era vissuto Maltoni? Luci e ombre, nel senso che Maltoni nella prima parte della sua carriera è riuscito anche a realizzare progetti importanti da lui ideati. Penso al progetto del PAP test, che nasce comunque in Emilia Romagna come test massivo da far fare a tante donne. Ecco, questa operazione, che fu un'operazione complessa, venne sostenuta anche con l'appoggio del Partito Comunista, e quindi, come dire, con un rapporto diretto tra Maltoni e la politica, una politica insomma in grado di tradurre le sue idee nel contesto sociale. E quindi, come dire, ebbe un rapporto importante col Partito Comunista, una stagione anche, come dire, di relazione molto stretta con la politica, e successivamente invece, diciamo, dalla fine degli anni Ottanta il rapporto con la politica diventa più complicato, comincia a diventare, come dire, ad essere, a subire anche una sorta di isolamento, e questo produce degli effetti sia sull'istituto Ramazzini sia proprio sulla persona di Maltoni, cioè una stanchezza maggiore, anche uno sconforto anche rispetto a non trovare sponda nella politica rispetto al suo lavoro. In ogni caso, come dire, il bene pubblico, la salute dei cittadini è sempre stata al primo posto, come dire, nella vita, nel lavoro di Maltoni? Sì, assolutamente, cioè nel senso che Maltoni in realtà non ha mai fatto distinzione fra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Tutti hanno il diritto ad essere curati in ugual misura e con la medesima attenzione, e questo è stato dimostrato nella vita di Maltoni non solo attraverso la sua attività di ricercatore, ma anche attraverso, come dire, una relazione diretta con i pazienti o con i parenti dei pazienti che da lui venivano a curarsi, che è sempre stata una relazione molto umana, molto calda e presente, cioè dotata di una grande presenza, tanto è vero che noi nella nostra ricerca abbiamo trovato tantissime lettere di parenti, di persone curate da Maltoni e dal suo staff, che ringraziavano Maltoni, che ringraziavano per tutto il lavoro profuso, per l'interesse manifestato nei confronti dei pazienti, e quindi questo è un dato molto importante, cioè, come dire, mette in luce anche, non solo a volte pensiamo, insomma, l'algida scienza, l'algida tecnica scienza, ma anche l'aspetto più umano necessario per mantenere in vita un rapporto con chi è malato, ecco. Io ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi.